la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:29 primi 50 secondi. Oscar Giannino vi ringrazia per l'ascolto diretto in podcast della versione di Oscar qui. Torniamo, sì, in questi giorni ci avete fatto caso a questa sigla. E vedrete che anche ciò di cui parliamo oggi è un'ulteriore conferma, per così dire. Allora, oggi la puntata è dedicata alla coincidenza di un libro e un editoriale del Corriere della Sera, l'editoriale del Corriere della Sera oggi firmato da Ferruccio De Bortoli, e che rilancia appunto questo libro. Lo dico in particolare per chi ci ascolta da Padova, agli amici dell'Unione Industriale di Padova, perché lunedì pomeriggio abbiamo fatto insieme la vostra assemblea privata. Se vi ricordate, il libro era esattamente ciò che vi consigliavo di leggere, perché è un libro che nasce dalle intenzioni dell'economista che lo ha scritto come una proposta di riflessione, con tanto di proposte finali, esattamente innanzitutto ai Confindustria, agli imprenditori iscritti a Confindustria, naturalmente a tutti poi gli imprenditori italiani, e non solo agli imprenditori italiani, a chiunque si voglia confrontare con i temi della crescita del nostro paese. Però il libro è nato proprio a questo fine, e tanto è vero che lo abbiamo a lungo commentato insieme. È stato questo libro il filo rosso di tutta l'assemblea. Molti di voi alla fine mi hanno chiesto appunto di ripetere il titolo e l'autore, e oggi Ferruccio De Bortoli, evidentemente colpito anche lui dalla lettura di questo libro, ne ha fatto poi la parte finale del suo editoriale che trovate sul Corriere della Sera oggi, il cui titolo è Il coraggio necessario per aiutare le imprese. E quindi il libro di cui parliamo e le analisi che l'autore vi ha compreso, nonché le proposte finali. Il libro si intitola Torniamo a industriarci, l'editore è Guida, ripeto il titolo, Torniamo a industriarci, l'editore è Guida, e l'autore che è con noi è Riccardo Gallo, che ha una lunga carriera alle spalle di dirigente pubblico e professore universitario, oggi insegna appunto economia industriale ed è a Roma, alla Sapienza, ed è con noi collegato, e ci raggiungerà tra poco anche Ferruccio De Bortoli. Intanto saluto e ringrazio per questo suo libro, ma anche perché ci conosciamo da una vita, Riccardo Gallo, grazie di essere con noi. Buonasera. Allora, in questo libro si fanno delle analisi su da quanti anni e che cosa alcune indicatori di fondo non funzionano nel sistema delle imprese italiane. Lasciatemi dire che prima di entrare nel merito vi ricapitolo anche la novità di giornata relativa proprio alle previsioni economiche e agli andamenti che abbiamo di fronte a noi, perché stamattina da Milano proprio il Centro Studi Confindustria ha rilasciato le previsioni corrette sull'andamento che ci aspetta nel 2016, 17, 18 dell'economia italiana, corrette intanto per la stima dei primi effetti del referendum britannico, la Brexit, e ora vi dico che cosa pensa Confindustria di questo. E poi c'è le ultime 6 slide delle 66 delle previsioni del Centro Studi di Confindustria, che vedrete sui giornali domani, faranno molto discutere perché si è acceso immediatamente un dibattito politico molto forte, in cui si fa una stima degli effetti dell'eventuale vittoria del no al referendum costituzionale che dovremo tenere nel prossimo autunno, e immediatamente la politica si è accesa. Però intanto cominciamo dalla stima del Centro Studi Confindustria per gli effetti del Brexit sull'economia italiana, e gli effetti ci sono, come, perché il Centro Studi stima che il PIL 2016 a questo punto non crescerà più dello 0,8%, cioè esattamente come il 2015, non verso il più 1,2, più 1,4 come si attendeva, e oltre a questo più 0,8 nel 2016 ci sarà un'ulteriore diminuzione a questo punto nel 2017, perché la stima del Centro Studi di Confindustria è che il PIL 2017 cresca solo dello 0,6. Questo per quello che riguarda il PIL, e quindi come vedete c'è un effetto, vedremo se confermato, perché dipende tutto da quello che succede quest'estate, l'instabilità dei mercati finanziari, se, come e quando davvero poi verrà notificato l'articolo 50, eccetera, eccetera, ma intanto il Centro Studi pensa questo. Non vi dico poi qual è la stima in caso di vittoria del no al referendum in autunno, perché complessivamente, e questo farà molto discutere, il centro-sud di Confindustria ritiene che fino al 2019 gli effetti cumulati di un'eventuale vittoria del no al nuovo testo della Costituzione sarebbero di ben 4 punti di PIL in meno cumulati negli anni fino al 2019 compreso, cioè ci sarebbe un meno 1,7% rispetto a un più 2,3% cumulato previsto fino al 2019, ma di fatto si entrerebbe in recessione di nuovo col segno meno in caso di vittoria del no al referendum, per una complessiva diminuzione molto forte degli investimenti negli anni 2017, 18 e 19. Gli effetti cumulati sugli investimenti sarebbero di un meno 12,1% entro il 2019 rispetto a un più 5,6% atteso, ripeto, negli anni 2017, 2018 e 2019, e con effetti sugli occupati altrettanto catastrofici, perché rispetto ai più 319.000 occupati attesi al 2019 ci se ne sarebbero invece 258.000 in meno, quindi con un delta di 600.000 occupati in caso di vittoria del no. Sono insorti immediatamente tutti coloro che si battono per il no al referendum, però le cifre sono queste, e sono cifre su cui c'è poco purtroppo da sorridere. Ripeto, molti attaccano il criterio con cui il Centro Studi Confindustria ha formulato queste previsioni sulle conseguenze del no al referendum, ma intanto resta che, come vedete, l'effetto della vittoria del Leave in Gran Bretagna non è un effetto affatto trascurabile. Tra le tante altre cose, poi ovviamente quest'anno non ci sarà la promessa discesa del debito pubblico, in ogni caso, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, di fronte a questo, nel suo libro Torniamo a Industriarci, Guida Editori, Riccardo Gallo parte da alcune considerazioni, e le considerazioni sono quelle della dati di Mediobanca alla mano dei campioni sia delle multinazionali italiane, le multinazionali sono quelle con più di 3 miliardi di euro di fatturato, almeno 10% realizzato direttamente all'estero, eccetera eccetera. Di questo tipo di imprese ne abbiamo 13 solo nel nostro paese oramai, erano di più negli anni ma sono diminuite. Poi allarga la sua riflessione a tutto il campione del sempre di Mediobanca, censito da RS di Mediobanca, di tutte le imprese manifatturiere, si pone alcuni problemi, cioè di ricostruire nel tempo da quanti negli ultimi 10 anni quanto è sceso il conferimento rispetto agli input di produzione, quindi quanto di manifatturiero le imprese industriali italiane hanno aggiunto nel loro processo di trasformazione prima dell'output finale, e scopre che questo è diminuito più che altrove in Europa, tanto per le multinazionali quanto per il campione delle imprese industriali non multinazionali, dove è sceso addirittura al 16%. Quindi un decennio di minor conferimento di valore aggiunto manifatturiero da parte delle, in primis, delle imprese industriali nel nostro paese. Ed è un processo che in questi 10 anni si verifica, ma che ha alle spalle, anche qui numeri alla mano, un processo che va avanti da prima dell'euro in realtà, che riguarda gli investimenti, perché addirittura dal 1996, da quell'anno, nel campione delle imprese manifatturiere di Mediobanca, il totale degli ammortamenti supera gli investimenti netti nelle imprese industriali censite da Mediobanca, con tutti gli effetti che sono evidenti, no? Sono evidenti perché significa che la caduta degli investimenti italiani, siamo più o meno al 27%, è la stima tra pubblici e privati negli anni di crisi, ma come vedete la caduta data in precedenza rispetto alla crisi e rispetto all'euro, e questo è un problema di lunghissimo periodo che abbiamo alle spalle, la caduta degli investimenti. Ed è esattamente su questo che oggi Ferruccio De Bortoli, partendo da un po' di questi dati, poi ce ne sono tanti altri nel libro, ci sono i dati che riguardano anche, ci sono anche critiche a voi industriali, perché si ricorda che in 25 anni voi avete, in realtà, rispetto agli utili netti consolidati delle manifatturiere censite da Mediobanca, vi siete portati a casa dividendi rispetto a quegli utili netti pari al 110%, quindi anche questo ha contribuito ai vostri pochi investimenti, oltre alla crisi, eccetera, eccetera. Però c'è anche questo, Riccardo Gallo non si tira indietro. E da questo è partito Ferruccio De Bortoli per la sua analisi e le sue proposte. Ci ha raggiunto per telefono, io ringrazio Ferruccio, grazie di essere con noi. Cosa... Buongiorno a tutti. Cosa ti ha colpito del libro e perché sostieni le sue proposte, che a questo punto lascio a te naturalmente spiegare. Ma guarda Oscar, io credo che ci sia stata una scarsa attenzione sul tema degli investimenti nei primi 2 anni del governo Renzi. Era del tutto comprensibile che all'inizio Renzi volesse stimolare i consumi e si aspettasse però da questo stimolo dei consumi dei risultati sull'andamento della crescita ben diversi di quelli piuttosto modesti che dobbiamo registrare. Dal punto di vista degli investimenti pubblici, se guardiamo i dati, ecco, gli investimenti pubblici sono stati sacrificati nel tentativo, peraltro non riuscito, di contenere la dinamica del debito pubblico. Si è preferito sacrificare gli investimenti, quelli che naturalmente ti fanno crescere la domanda ma ti sostengono nel medio e nel lungo periodo la crescita, piuttosto che aggredire la spesa improduttiva. Io credo che forse sia venuto il momento, ovviamente abbiamo tante preoccupazioni, c'è la Brexit, c'è soprattutto tutto il tema del comparto bancario, però io spero che la discussione sulla legge di stabilità per il 2017 parta da queste considerazioni. Come possiamo far crescere gli investimenti? Io credo che naturalmente non sia soltanto il governo, certo, che debba prendere delle iniziative, forse una riflessione, anche un esame di coscienza lo debbono fare gli stessi imprenditori, sì, perché quello che dicevi tu prima, mm-hmm, c'è stato poi una fuga dalle imprese, anche dagli stessi imprenditori che forse in qualche caso hanno deciso di vendere, sono diventati dei rentier, a volte sono entrati magari nel settore immobiliare ma hanno abbandonato quello manifatturiero. Dopodiché bisogna sottolineare, e io ho riportato dei dati di Confindustria piuttosto significativi, che la propensione agli investimenti rispetto al valore aggiunto è comunque elevata in Italia quanto è elevata in Germania. Bisogna naturalmente tenere conto che il valore aggiunto è cresciuto poco, anche in un anno di ripresa come il 2015 è cresciuto nei mezzi di trasporto, ma per esempio nel tessile non è cresciuto affatto. Allora forse una riflessione sul fatto, anche culturale, non soltanto economico: vogliamo investire per il futuro dei nostri figli? Vogliamo investire in questo paese? Dobbiamo fare di tutto per promuovere gli investimenti. Allora la proposta di Riccardo Gallo è una proposta che colpisce, perché dice: facciamo tutti gli ammortamenti possibili senza limiti. Tra l'altro, se ho ben capito, il governo si indirizza anche a rendere possibile, al di là del superammortamento del 140% di cui abbiamo parlato in questi mesi, anche un iperammortamento per tutto ciò che è finalizzato alla ricerca e quindi è finalizzato alle alte tecnologie ed è finalizzato soprattutto alla costruzione di questa base industria 4.0. Se vogliamo essere protagonisti dell'industria 4.0 dobbiamo investire di più. Investimenti privati ma anche investimenti pubblici. E allora, cari ascoltatori, di fronte a una caduta tanto verticale accumulata negli anni di investimenti, l'incentivo fiscale deve essere, per così dire, proporzionato a generare una leva, un salto in avanti in termini di convenienza fiscale proporzionato alla caduta. Quindi viva, d'accordo, riconosciamolo oggettivamente, il governo che ha aumentato al 140% gli ammortamenti quest'anno. Ma l'idea è quella di accrescere questa leva. È così, professor Riccardo Gallo? Sì, è così. Diciamo che io la vedo proprio come un atto di liberalizzazione, cioè di arretramento della decisione dirigistica dello Stato nella vita delle imprese. Perché mai lo Stato deve stabilire in quanti anni un'impresa ricostituisce il capitale inizialmente investito? Ognuno fa come gli pare, nel senso che chi vuole. È chiaro che un'impresa ricostituisce il capitale perché solo dopo averlo ricostituito può calcolare l'incremento netto e quindi può calcolare il beneficio economico, la ragione per la quale l'investimento viene fatto. Ecco, ciò premesso, lo Stato perché deve decidere lui attraverso il fisco se quel certo patrimonio, mezzi di produzione, deve essere ricostituito in un anno, in 10 anni o in 20 anni? Beh, io mi metto sì, per far capire ai nostri ascoltatori, mi metto nei panni di un ipotetico Stato e le do la risposta. Lo sì. Stato dice: caro professor Riccardo Gallo e caro Ferruccio De Bortoli, sì, se do retta a voi, e cioè faccio spesare, usiamo un verbo sì, non tecnico, esatto, nell'anno di bilancio in cui si fanno gli investimenti, solo in quell'anno tutti gli investimenti che realizza l'impresa, è come, quindi porto a quel punto il coefficiente dal 140% al 1000%, perché questo significa un investimento decennale spesato in un bilancio. Io, caro professor Gallo e caro Ferruccio De Bortoli, Stato, ci rimetto un bel po' di imposte che voi a quel punto non mi pagate. Non è che posso essere indifferente di fronte a questo. Questa è l'obiezione. Può recuperare Oscar negli anni successivi, esattamente, però dà certamente una botta di vitalità a tutta l'industria, perché a questo punto il cavallo famoso non beve più, perché forse magari è pure annegato, non ce ne siamo accorti. Ma insomma, quindi noi dobbiamo in qualche modo dare, anche per attirare degli investimenti produttivi che non siano soltanto degli investimenti diretti che si prendono nelle società e poi le spolpano e le portano via, insomma, dobbiamo anche in qualche modo, specialmente adesso che c'è Brexit, specialmente adesso esatto, che si creano delle condizioni di vantaggi comparativi diversi nell'Unione Europea e fuori dall'Unione Europea, forse dire questo, noi possiamo anche attrarre delle attività manifatturiere di un certo peso, esatto, perché diamo un vantaggio rilevante. Del resto poi noi competiamo con dei paesi dell'est che fanno più o meno la stessa cosa. Sì, certo. Poi alla fine, allora forse questo può essere anche uno stimolo molto forte, ma anche e soprattutto il ribadire che la missione economica del nostro paese sta dentro l'industria, sta dentro l'industria manifatturiera, che viene prima di tante altre cose. E questo è dal mio punto di vista più un messaggio culturale, cioè noi vogliamo l'industria nel nostro paese e dovremmo anche porci tutta una serie di problemi che riguardano anche un atteggiamento anti-industriale, esatto, anti-impresa, che fa parte, diciamo, del nostro modo, anche un po' dell'antropologia di questo paese. Noi vorremmo i vantaggi dell'industria senza avere l'industria accanto alle nostre abitazioni, che purtroppo non possiamo evitarlo, insomma, ma speriamo di avere delle industrie che possono, specialmente con questo orizzonte dell'industria leggera 4.0, l'internet delle cose e la possibilità che ci possano essere investimenti di quella natura anche nel nostro paese, e forse ci mettiamo in una condizione di poterle attrarre. Dove li riprendiamo questi soldi? Riprendiamo facendo veramente una spending review che è stata abbandonata, perché se tu vai a vedere i dati al netto del risparmio sulla spesa per interessi, la nostra spesa continua tranquillamente a galoppare, perché il nostro messaggio, anche guardate cosa faranno poi, sono qui che aspetto di capire come verrà gestito il debito di Roma, se lo dimenticano, perché no, ma c'è un'irresponsabilità sul debito a tutti i livelli, per cui alla fine il debito non appartiene a nessuno, l'ha fatto qualcun altro. Esatto, e quindi si ritratta, si azzera, si consolida, questa è un po' l'illusione. Comunque io batto le mani a entrambi, e su questa cosa della spesa pubblica e del debito, ieri con Veronica De Romani ci abbiamo ricordato un po' di numeri, molti hanno protestato dicendo che queste sono tesi tedesche, ma no, i numeri sono i numeri. Torniamo tra un minuto, intanto le informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Ed eccoci in diretta con i nostri due ospiti a parlare di questo libro scritto dal professor Riccardo Gallo, che è con noi. Torniamo a industriarci, il titolo, Guida Editori, in cui si fa un'analisi. Non è un librone, io ve lo dico subito, si legge agevolmente, numeri alla mano però, per analizzare da quando alcuni fenomeni corrosivi, alcune linee di frattura sono avanzate nelle imprese italiane e soprattutto nel settore industriale e manifatturiero, e con una riflessione profonda sugli investimenti e con delle proposte finali che oggi appunto sul Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, che anche con noi lo avete sentito, ha fatto proprio, ha rilanciato aggiungendo le considerazioni più generali sull'importanza proprio per quello che avviene sulla scena internazionale, le frenate di cui vi ho parlato all'inizio. Oggi il Centro Studi Confindustria ha aggiornato purtroppo al ribasso, fortemente al ribasso, le attese di crescita del nostro paese. Bisogna per forza a questo punto mettere come cambio di marcia. Professor Gallo, lei mi ha colpito anche per, lo conosco da tanto tempo, però lo dico per chi ci ascolta, per onestà con cui non si nasconde anche che le imprese hanno delle responsabilità, ne parlava anche Ferruccio De Bortoli, che dice? Sì, intanto posso fare dei conti in tasca alle imprese. Deve. Perché quelli che ci ascoltano devono sapere che in questo momento, cioè nel 2014-15, il valore aggiunto delle imprese industriali è il 17% del fatturato, cioè un'impresa ci mette di suo, di quanto vende, ci mette il 17%. Il costo del lavoro è il 10%, quindi 17 meno 10 fa 7. Con questo 7 ci devono fare gli ammortamenti, pagare gli oneri finanziari, pagare le imposte e distribuirsi l'utile. Allora, di questo 7, oggi oneri finanziari sono bassi obiettivamente. Se le imposte, diciamo, non gliele facciamo pagare, nel senso che gli facciamo spesare gli investimenti, loro non hanno utile imponibile e non possono nemmeno avere l'utile netto da distribuire come dividendi. Certo. Quindi, se lo Stato accettasse questa proposta, imporrebbe implicitamente agli imprenditori di non distribuirsi l'utile, quindi sarebbe una sorta di alleanza implicita tra gli azionisti e lo Stato a lasciare i soldi nell'impresa per fare investimenti. Inciso. Questo lo dico per chiarire le cifre. Inciso, professor Gallo, e mi rivolgo anche a Ferruccio Bortoli, cosa analoga io mi sarei aspettata in questi anni di instabilità bancaria italiana. Abbiamo aggiunto adesso una debolezza dichiarata di fronte all'euroarea, non solo sul capitale delle banche, non solo sul credito delle banche, ma adesso anche sulla liquidità per via della garanzia straordinaria in caso di emergenze di liquidità di 150 miliardi garantiti dallo Stato. A fronte di tutto questo, il regolatore italiano si è ben guardato dal dire alle banche che dovevano piantarla in questi anni a fronte di questi sostegni necessari, perché la stabilità bancaria è necessaria, però forse bisognava piantarla lì con i dividendi, concedole anche per miliardi in alcuni grandi istituti. Questo polemica mia, e chiudo e le restituisco la parola, professor. Sì, io direi pure che bisogna piantarla ad attaccare le banche che perché? Non fanno credito, perché se le imprese fanno investimenti inferiori all'autofinanziamento e il surplus di autofinanziamento lo destinano a diminuire i debiti finanziari, allora vuol dire che il collo di bottiglia non sta dalla parte delle risorse finanziarie, sta dalla parte della propensione a rischiare e investire. Perché? Perché agli imprenditori lo Stato e il sistema gli ha fatto passare la voglia. Ha fatto passare la voglia. Questo è il discorso di fondo, però diciamo, tranne il coraggio di Radio 24, c'è un certo perbenismo a dire ma pare brutto dirlo. Allora qui bisogna dire le cose come stanno, e questa caduta della propensione a rischiare uno non è che se la può prendere esclusivamente con gli imprenditori. Gli certo. Imprenditori in un certo senso come dire, non sono un sistema consapevole, io non voglio essere offensivo in quello che dico, cerco di chiarire bene, ma se non c'è l'ecosistema, imprenditori non nascono e non rischiano, quindi occorre che la politica industriale, per così dire, sia una politica dell'ambiente, cioè dell'ecosistema economico produttivo, in modo tale che ci sia una bonifica e gli imprenditori senza mettersi d'accordo fra di loro, senza suggerire al Presidente della Confindustria, senza prendere ordini da nessuno, trovino la convenienza da animal spirits a tornare a rischiare e a fare il mestiere loro, che è quello degli imprenditori. Però è anche vero che lei nel libro dichiara esplicitamente che nasce questa sua riflessione, nata attraverso diversi paper scientifici negli anni, però è finalizzata con questo libro più snello proprio a che i confidenziali per primi abbiano un chiaro, un'idea chiara delle poche ma decise priorità da mettere sul tavolo del governo. Esattamente, cioè io vorrei che gli imprenditori, questo discorso che io adesso ho appena fatto, come dire, un po' a difesa, però occorre pure che ci sia una assunzione di responsabilità, perché mica siamo bambini, siamo grandi, adulti e vaccinati, quindi primo non possiamo chiedere di tutto e di più allo Stato senza impegnarci poi a fare investimenti. Secondo, occorre una specie di outing, cioè ci sia una ammissione catartica. Di dire è vero, noi che la parte, che è la parte più difficile in questo paese. È la parte più difficile, esatto. Aspetti un secondo, chiediamo a Ferruccio Del Bortolo, perché è più difficile questa parte catartica di autoassunzione di colpa e responsabilità? Beh, soprattutto perché questo in nostro paese non c'è una grande riflessione da parte di tutti noi, classe dirigente in generale, su quelle che sono le colpe proprie. C'è una affannosa ricerca delle colpe degli altri, poi a volte si scaricano le responsabilità sullo Stato e qualche volta anche su soggetti, magari sulla Germania, che ne so, distanti. Per esempio tutta questa cosa che la Germania è tutta colpa della Germania, che noi immagino che la professoressa De Romanis abbia detto, si è immolata insieme a me di fronte agli ascoltatori, che, molti dei quali io devo dirlo a entrambi, guardate che in questi anni il cambio di polso che viene dai messaggi che vengono dagli ascoltatori a raffica anche oggi è molto, fa molto riflettere chi come me deve andare due volte al giorno in diretta, cioè c'è un cambio molto profondo di come gli italiani percepiscono queste cose, e devo dire la verità, la rabbia prevale sull'autocritica, e a me questo a volte mi fa sentire non all'altezza della responsabilità di fare delle domande a chi come voi ha il compito poi di dare delle risposte, ma anche del tono da usare, perché la gente è molto molto poco disposta ad ammettere ormai delle colpe. Io per primo, va benissimo, no, io per primo le devo ammettere le mie, però voglio dire, abbiamo parlato di un libro, ripeto il titolo, torniamo a industriarci, guida editori, Riccardo Gallo, grazie a lui che l'ha scritto, e grazie a Ferruccio Del Bortolo per editoriali come quello di oggi e tutto quello che fa ogni giorno. Continuate su Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12, uno speciale di Conti della Belva con me, caro Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, sull'economia del calcio italiano e tedesco in vista di domani sera.